Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Chi ha truffato dovrà pagare e chi è stato truffato dovrà essere risarcito, punto. La Palissiano potrebbe dire qualcuno, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi torna in una puntata registrata questa sera, ci sarà Porta a Porta su Rai 1 a parlare di banche inevitabilmente, perché questa è una grana che si trascinerà per molto tempo, sia per capire se appunto risarcire i risparmiatori, poi per anche tutte le implicazioni insomma legate alle inchieste, adesso al caso Boschi, il centrodestra che anzi chiede, dopo che il Movimento 5 Stelle ieri ha chiesto la sfiducia per la ministra Boschi, adesso invece il centrodestra unito annuncia per domani la sfiducia a tutto l'intero governo. Torneremo ovviamente a parlarne di banche inevitabilmente, perché cercheremo anche di capire non solo quali sono i nuovi capitoli, ma anche quali sono in modo più propedeutico, perché forse c'è stata anche non solo da una parte poca chiarezza, poca trasparenza, probabilmente anche molte truffe, dall'altra c'è stata forse anche una certa, possiamo dire, poca competenza di certi strumenti finanziari. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più stasera. Poi cercheremo anche di comprendere se questo allarme enorme che c'è stato a Los Angeles oggi negli Stati Uniti, che ha fatto chiudere tutte le scuole, perquisire tutte le scuole e far stare a casa migliaia di studenti, sia effettivamente un allarme fondato oppure se c'è stato un eccesso di prudenza. Poi siamo in attesa della sentenza della Cassazione sul caso Cucchi, il processo Cucchi, il giovane geometra che era stato arrestato per droga ed era morto una settimana dopo l'arresto nel 2009. Anche questa è una vicenda che si trascina da molto tempo. Poi ci sarà il calcio, poi mille altre cose come sempre. Qui effetto notte, vi riassumo all'inizio il bilancio della giornata. Non perdete, come sempre, anzi ditelo ad amici, parenti, conoscenti, effetto notte da seguire tutte le sere, prima o dopo i pasti, a seconda insomma che ceniate, allora che ceniate. Sono le 21:04, direi di partire con i titoli più importanti. La vicenda delle banche, Renzi assicura chi ha truffato pagherà e chi è stato truffato sarà risarcito. Le opposizioni restano però sul piede di guerra. Dopo il Movimento 5 Stelle, anche il centrodestra annuncia una mozione di sfiducia. Allarme terrorismo a Los Angeles, dopo una mail proveniente dalla Germania, scuole chiuse e perquisite in tutto il distretto. La lotta all'ISIS, a Riyadh nasce l'alleanza militare islamica con 34 paesi, anche Egitto e Turchia. Vertice a Mosca tra Putin e Kerry, che dice disposti a lavorare con la Russia per la disfatta dell'ISIS. Il caso Cucchi, si attende la sentenza della Cassazione, la richiesta del procuratore generale di assolvere gli agenti e condannare i medici. Domani sciopero dei medici, difendiamo il sistema sanitario nazionale, dicono stop a 2 milioni di visite e a 40.000 interventi chirurgici, garantiti solo gli interventi di emergenza. Istat, oltre la metà dei ragazzi ha subito episodi di bullismo, più vittime tra le ragazze e tra i residenti al nord. I conti dei partiti, Forza Italia in bolletta, licenzia tutti i dipendenti. Calcio, Coppa Italia, in campo Inter Cagliari. E prima di iniziare vi ricordo come sempre che ci sono due canali privilegiati per voi per interagire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure ci sono gli sms al 349-238-6666 da inviare, al 349-238-6666. Se volete ancora su questa questione delle banche, su quello che sentirete che replica Renzi e poi il centrodestra, vi dicevo che vuole sfiduciare l'intero governo, anzi ne parliamo adesso della vicenda delle banche con Renzi che assicura nella puntata registrata, vi dicevo, di stasera di Porta a Porta, chi ha truffato pagherà e chi è stato truffato sarà risarcito. Le opposizioni però restano sul piede di guerra. Dopo il Movimento di 5 Stelle, anche il centrodestra unito annuncia una mozione di sfiducia non solo contro la ministra Boschi, ma contro tutto il governo Renzi. E il presidente del Consiglio risponde così a Salvini. Io oggi ho visto Matteo Salvini che ha detto che io sono il responsabile della morte di quel pensionato che si è ucciso. Ha detto che io sono infame. Noi si può fare politica quanto vogliamo, però c'è un limite che è il confine del rispetto umano. Quando si esce da quel limite, si entra nel terreno dell'odio e si arriva a strumentalizzare la morte delle persone, siamo al di là del bene e del male. Qual è la vostra opinione, diciamo, complessivamente e sinteticamente su tutta questa vicenda? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, poi torneremo naturalmente a parlarne, vi dicevo, cercheremo anche di capire qualcosa di più su azioni, obbligazioni, tutti questi termini che magari a molti sono oscuri. Intanto ci sono le inchieste che vanno avanti, indagati i vertici di Banca Etruria. Nel registro degli indagati sono finiti l'ex presidente Rosi, il cui vice all'epoca dei fatti tra il 2013 e il 2014 era il papà del ministro Boschi, e l'ex consigliere Nataloni. I due avrebbero ottenuto finanziamenti personali, provocando buchi nei conti dell'Etruria, poi coperti con le emissioni di bond subordinati anche dopo il commissariamento. Da qui la probabile truffa nei confronti degli obbligazionisti, che potrebbe portare a un nuovo fascicolo, il quarto, partendo dagli esposti di Federconsumatori e Codacons. La colpa è della banca, ma anche della crisi, ci racconta il presidente dell'ABI Patuelli. Ci sono stati casi di cattive gestioni del credito appesantite da 7 anni di crisi. Prima del 2008, quando è stata sottoscritta la metà dei bond, i rischi erano diversi, ci spiega Nicastro, presidente delle 4 banche salvate dal governo. In quel momento la loro rischiosità è una rischiosità che ancora non sapeva che in futuro ci sarebbe stata una crisi finanziaria come quella di Lehman, e men che meno sapeva che addirittura 8 anni dopo sarebbe uscita una normativa del bail-in, che come sappiamo ha reso i prodotti più rischiosi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fra l'altro, oggi Renzi, nelle varie dichiarazioni anticipate da Porta a Porta, ha detto, a proposito dei banchieri, che molti si chiedono, ma i banchieri pagheranno? Dice, no, non pagheranno. La norma riguarda amministratori che entrano in carica ora e non possono essere chiamati a rispondere del passato. Vedo già dei vostri commenti, perché questa frase di Renzi l'ho messa sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Passiamo all'allarme bomba negli Stati Uniti, a Los Angeles, che ha portato alla chiusura di oltre 1200 scuole perquisite, lasciando a casa 655.000 studenti. Si tratta di un'allerta senza precedenti negli ultimi 10 anni, seguita a una mail proveniente dalla Germania, inviata direttamente a un membro del Consiglio del Distretto Scolastico di Los Angeles. Capiremo tra poco se tuttora ci sia questa allerta e se è stata effettivamente concreta. E a proposito di terrorismo, l'Arabia Saudita prende l'iniziativa formando un'alleanza militare islamica di 34 paesi contro il terrorismo, non solo quello dell'ISIS, ma il segretario della difesa americano Ash Carter, giunto oggi in Turchia, dice di voler ricevere più informazioni in proposito, mentre l'esclusione di Iran e Iraq dalla nuova coalizione lascia aperta la questione della divisione e delle rivalità tra mondo sunnita e sciita. E c'è stato oggi a Mosca un incontro tra il presidente russo Putin e il segretario di Stato americano Kerry, il quale al termine di questo faccia a faccia ha detto gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con la Federazione Russa per la disfatta dell'ISIS. E c'è anche un'altra alleanza inedita sul fronte anti-ISIS, bisogna dire. Oltre 5.000 miliziani dell'opposizione siriana interagiscono con le truppe di Damasco nella lotta all'ISIS. Sapete che finora invece il regime di Damasco e le milizie diciamo regolari erano in contrapposizione con gli oppositori. Adesso invece cercano di combattere insieme contro l'ISIS, così ha detto il generale dello Stato Maggiore russo Rudovskoy, secondo cui unità dell'opposizione forniscono all'aviazione russa le coordinate degli obiettivi dei terroristi da distruggere. C'era anche una notizia che riguarda un annuncio che ha fatto Renzi a proposito dell'Iraq. Ha detto che invierà 450 soldati italiani per difendere la diga di Mosul, e c'è la stretta contro il terrorismo anche in Europa. The ultimate objective is that through stronger preventive actions we can avoid emergency situations. Evitare situazioni d'emergenza attraverso azioni più forti di prevenzione. Con questo obiettivo, spiegato dal commissario UE agli affari interni Avramopoulos, la Commissione europea, riunita a Strasburgo, ha varato in giornata una proposta legislativa per la creazione di una vera e propria guardia di frontiera europea. Una proposta che, se approvata, comporterebbe una cessione importante di sovranità da parte degli Stati membri in un settore che è stato finora appannaggio esclusivo dei poteri nazionali. La guardia di frontiera e costiera europea sarebbe composta da 1.500 uomini provenienti da una riserva apposita costituita in diversi Stati membri, pronta a mobilitarsi in 2 o 3 giorni per andare a sorvegliare i confini esterni dello spazio Schengen in caso di crisi non gestibile da parte del paese interessato e anche contro il suo volere. Se dovesse ricevere il via libera dei vari governi, il nuovo corpo prenderebbe il posto dell'agenzia Frontex e avrebbe poteri più ampi, tra questi un ruolo di monitoraggio e supervisione, con la possibilità di stabilire la capacità di un paese di affrontare adeguatamente le situazioni e di effettuare efficacemente i controlli. Non solo, all'interno dell'agenzia sarebbe costituito un ufficio europeo per i rimpatri con squadre di intervento composte da specialisti che lavorerebbero per rimpatriare i migranti senza diritti di asilo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo adesso in Italia, a Montecitorio, dove ormai alle battute finali l'esame in commissione della legge di stabilità. Il testo dovrebbe arrivare in aula giovedì. Sono molte le novità introdotte nella legge di stabilità nelle ultime ore nel corso del suo esame alla Commissione Bilancio della Camera. Con un nuovo emendamento del Governo torna l'assunzione di personale sanitario per fare fronte alle norme europee sull'orario di lavoro. Carte di credito e bancomat invece potranno essere utilizzate anche per comprare un caffè al bar o pagare un parcheggio nelle strisce blu. L'obbligo di accettare pagamenti elettronici non troverà però applicazione in casi di oggettiva impossibilità tecnica. Eliminata poi la supertassa sulle imbarcazioni di lusso che era stata introdotta nel 2011 con il decreto Salva Italia del governo Monti. Via libera anche ad un bonus da 80 euro al mese per le forze dell'ordine, comprese le capitanerie di porto. Per tutti i ragazzi che compiranno 18 anni nel 2016 è in arrivo invece una carta prepagata del valore di 500 euro, soldi che potranno essere spesi per teatri, musei, eventi culturali o per l'acquisto di libri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordo che domani, non solo entro domani si deve pagare la TASI, ma domani oltre 200.000 medici saranno in sciopero, dicono, per salvare il sistema sanitario nazionale, a rischio quindi 2 milioni di visite ed esami, 40.000 interventi chirurgici, garantiti solo gli interventi di emergenza. Per la cronaca parliamo di questo duplice omicidio avvenuto a Sesto San Giovanni alle porte di Milano. Un 26enne ha ucciso i genitori a coltellate, confessando poi il delitto. Il giovane abusava di alcol ed era in cura per problemi psichici, ed è un dramma peraltro maturato in un contesto di alcolismo, droga, violenza e disperazione, col padre dell'uomo ormai affetto da cirrosi avanzata in sedia a rotelle, ma con un passato di violenze contro la moglie. E adesso occupiamoci di questa indagine Istat sui giovanissimi. Nel 2014 poco più del 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito qualche episodio offensivo, si rileva in questo rapporto dell'Istat, dove si sottolinea che il Nord registra un numero maggiore di vittime, più del 57%. Lina Laura Sabatini, direttrice per il Dipartimento delle Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat, al microfono di Edoardo Sirignano. Non possiamo stabilire che il fenomeno è in crescita perché è la prima volta che rileviamo questo fenomeno, però il 20% è una vittima frequente di una delle tipiche azioni di bullismo, quindi la subisce più volte al mese, e addirittura il 9% con cadenza settimanale. Sono sempre più diffuse le azioni vessatorie tramite SMS, chat e social network. Siamo al 6% di chi ha il cellulare o internet che ha subito questo tipo di bullismo. Sono soprattutto le ragazze a subirlo tra 14 e 17 anni. E parliamo anche dei conti dei partiti, perché Forza Italia è in bolletta e scatta il licenziamento per tutti i dipendenti. L'annuncio ufficiale arrivato dalla commissaria straordinaria Maria Rosaria Rossi dice è una diretta conseguenza dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. E poi la scomparsa di Cossutta, la camera ardente di Armando Cossutta, storico dirigente del PC, morto ieri a 89 anni, su richiesta della famiglia sarà allestita giovedì 17 dicembre in sala Nassiria al Senato. Per chiudere il calcio torna alla Coppa Italia, adesso ci sono in campo Inter e Cagliari, poi man mano vedremo gli aggiornamenti. Voglio dare un'occhiata anche prima pausa della viabilità anche alcuni vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, questo è il numero per gli SMS. Dice Fabio da Brindisi sulle banche, aiuti di Stato, violazione delle norme europee, precedente pericoloso, quasi un telegramma quello di Fabio. Poi un altro ascoltatore, se al posto della Boschi ci fosse stata, che so, Barbara Berlusconi, cosa avrebbe fatto la sinistra? Che sono un po' anche le domande che ha fatto ieri il Movimento 5 Stelle, anche qui a Effetto Notte. Poi i vostri commenti a proposito di Renzi, che dice che i banchieri non potranno pagare perché la legge scatta ora. E Chiara scrive, è una palla perché lo ha già previsto il decreto legge 180 del marzo 2015. Sto arrivando, il 35,3 vale assolutamente anche per i dirigenti e amministratori delle quattro banche appena salvate. Angelo dice, anzi Nicola, è normale, l'importante c'è chi paga per loro. E così altri messaggi, anche su una frase invece di Enrico Letta, che dice, sempre messa sulla pagina Facebook, Enrico Letta dice, se fossi in Parlamento voterei convintamente contro la mozione di sfiducia sul ministro Boschi, nessun dubbio, ma nessun dubbio anche sul fatto che Renzi ha cambiato idee tante volte e ha usato due pesi e due misure in una sorta di moralità a intermittenza. Dice così Enrico Letta nell'anticipazione a di martedì stasera era sulla 7 con Floris, che citava i casi Cancellieri e Idem. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci con gran velocità, avete visto? E adesso stavo guardando ancora i vostri messaggi, tra poco vi ricordo le notizie più importanti. Ricordatevi di accendere puntualmente la radio su Effetto Notte alle 21, ma io comunque ve li ricordo lo stesso. Tra i messaggi, a proposito delle dichiarazioni di Letta su Renzi, doppio pesismo, dice Alessandro sulla pagina Facebook: ha ragione Letta, Renzi chiese le dimissioni della cancellieri, per esempio. E a proposito di due pesi, due misure, Renzi dice a Renzi: fa schifo chi strumentalizza la morte di un pensionato suicida. Ma ci ricordiamo quando lui strumentalizzò la morte di Aylan, il bambino morto sulle spiagge greche, turche, per giustificare Mare Nostrum. Disse, vabbè, è una cosa un pochino diversa. Adesso vi ricordo le notizie più importanti, voi continuate con i vostri commenti sulla vicenda banche, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook del programma. Iraq, Renzi annuncia 450 militari italiani a difesa della diga di Mosul in Iraq. Tra l'altro è una ditta di Cesena che ha avuto l'appalto per riparare questa diga, dice, i nostri italiani a fianco dei soldati americani, dice Renzi, che poi sulla questione banche assicura chi ha truffato pagherà, e poi salvati, lui dice, abbiamo salvato 1 milione di correntisti, mentre il centrodestra annuncia la sfiducia al governo. Allarme negli Stati Uniti, allarme a Los Angeles, Zainetti, bomba, Los Angeles chiude tutte le scuole, vertice intanto tra Putin e Kerry che decidono di collaborare. Kerry, segretario di Stato americano, dice possiamo cominciare a collaborare fattivamente con la Russia contro l'ISIS. E poi per quanto riguarda la legge di stabilità, in manovra le assunzioni per la sanità, ma lo sciopero domani dei medici resta, ricordatevelo. E poi l'Europa per l'emergenza immigrazione propone delle guardie europee alle frontiere, controlli più severi e anche delle possibili modifiche all'accordo di Schengen, che è quello sulla libera circolazione delle persone. Processo Cucchi, in Cassazione chiesto l'appello bis per i medici, si è in attesa probabilmente stasera della sentenza della Cassazione. E siamo di nuovo, come vi dicevo, inevitabilmente alla vicenda delle quattro banche fallite, Cari Ferrara, Cari Chieti, Banca Marche e Banca Etruria, salvate, vi dicevo, dal provvedimento salvabanche del governo Renzi, che Renzi ha detto appunto ha salvato molti posti di lavoro e molti correntisti, però ha di fatto annullato i crediti degli obbligazionisti. Nei giorni scorsi è scattato il ping pong, vi ricordate, di accuse tra Unione Europea e governo italiano, con il governo italiano Renzi che diceva noi ci siamo attenuti nel salvataggio di queste banche alle regole europee. L'Europa invece ha detto il governo italiano e gli organismi preposti non hanno vigilato, e soprattutto queste banche hanno venduto a delle persone ignare dei prodotti inadeguati, e quindi le autorità di controllo non hanno fatto il loro mestiere. Però le autorità di controllo si difendono e sono partite intanto 3 inchieste su Banca Etruria, anche per conflitto di interessi, vari esposti dei consumatori, e ieri il responsabile PD dell'economia del governo Renzi ha detto che sta partendo al Senato una commissione parlamentare di inchiesta. Vi farei risentire però, intanto saluto Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, bentornato Alberto. Ciao e buonasera a tutti. Farei risentire Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, movimento che ieri ha annunciato questa mozione di sfiducia alla Camera contro la ministra Boschi, e ha oggi assicurato che ci sarà anche al Senato. Sentiamo Toninelli. Il tutto inizia il 20 di gennaio, quando viene emanato un decreto che trasforma le banche popolari in SPA, cioè un decreto che le salva, queste banche popolari. Tra queste banche popolari c'è anche la Banca Etruria, che puta caso, quel giorno in cui venne emanato il decreto, è stata la banca che ha guadagnato di più in borsa, addirittura 62%. Oltre a questo, il primo indizio però è che nei mesi precedenti questo decreto, appunto, che ha trasformato la popolare in SPA queste banche, c'è stata una strana speculazione su queste banche qua, sulla Etruria addirittura, che aveva una crisi finanziaria fino a 3 miliardi, chissà perché c'è stato un periodo in cui appunto nei mesi precedenti si vendevano molte azioni. Ciò ha detto molti sospetti, non nostri, ma la Procura di Roma sta indagando in questo. Se a ciò sommiamo che nel consiglio di amministrazione della Banca Etruria c'era il padre della Boschi, che è stato vicepresidente, ci pare assolutamente ovvio pensare che ci sia un abnorme conflitto di interessi. Questo ha detto ieri Toninelli qui a Effetto Notte, sul Toninelli del Movimento 5 Stelle. Renzi ha detto noi abbiamo mandato a casa l'intero CDA in cui c'era il padre della Boschi, quindi il CDA è stato sanzionato, il padre della Boschi ha pagato una sanzione, quindi la legge è uguale per tutti, non c'è stato nessun favoritismo. Però sentiamo adesso invece Brunetta di Forza Italia, oggi, che ha annunciato, dopo appunto il Movimento 5 Stelle ieri, la sfiducia da parte di tutto il centrodestra unito. Domani presenteremo tutto il centrodestra unito, alla Camera come al Senato, una mozione di sfiducia contro il governo. Boschi è solo una figlia di questo governo, una figlia in conflitto di interessi, ma chi ha i più grandi conflitti di interessi è il presidente Renzi. Primo perché è abusivo, non ha mai vinto le elezioni, ha solo vinto delle primarie chiacchierate. Secondo, perché si basa su maggioranze frutto della compravendita politica di parlamentari. Questo Brunetta di Forza Italia incalza anche Salvini, che a sua volta, diciamo, si è accodato alla mozione di sfiducia annunciata da Forza Italia. Una vergogna. In qualsiasi paese europeo, da nord a sud, con quello che è successo, non solo la Boschi, ma anche Renzi si sarebbero già dimessi. Banche fallite, banche salvate, amministratori aiutati, parenti coinvolti. Siamo veramente al peggio del peggio del peggio della Prima Repubblica. Questo Salvini fuori oggi dal Parlamento europeo e a questo annuncio di mozione di sfiducia all'intero governo Renzi da parte del centrodestra risponde Alessia Morani del PD. A noi non preoccupa e anzi la respingeremo con forza e compattamente. Il Partito Democratico ritiene questa richiesta di dimissione assolutamente immotivata. Anzi, con il decreto del governo noi abbiamo salvato 7.000 posti di lavoro nelle banche, abbiamo salvato 1 milione di correntisti e abbiamo stabilito anche un fondo di 100 milioni di euro per tutti quei risparmiatori che forse hanno fatto un acquisto incauto. Poi anche Renzi di nuovo ha ribadito in questa anticipazione di Porta a Porta appunto che hanno salvato 1 milione di persone, di correntisti, 7.200 stipendi che sarebbero stati non pagati, e poi ha detto che questa mozione di sfiducia sarà un autogol. Ma con Alberto Rioli, Alberto, vorrei capire, che tu aiutassi tutti noi insomma a capire qualcosa di più su questi strumenti di investimento, azioni, obbligazioni, le differenze, perché io penso che a molti non sia chiara la differenza e anche che cosa significhino. Beh sì, effettivamente bisogna dire che quando questo tipo di argomenti finanziari, la fiducia delle banche, finisce nel tritacarne, nelle clave della polemica politica, anche la più becera, diventa molto pericoloso per il paese, obiettivamente, perché non è materia che si possa trattare con leggerezza, perché diciamo così, da Mary Poppins in poi tutti abbiamo visto quanto ci vuole poco a svuotare le banche da parte di correntisti terrorizzati e quanto questo possa essere poi avere un impatto sistemico, come dicono gli economisti, molto pericoloso poi su tutto il sistema economico di un paese. Comunque, tornando a quello che mi chiedevi, faccio un quadro, Alberto, proprio molto molto elementare, molto molto base, che secondo me a volte, anzi sempre, sarebbe utile, no? D'accordo, ci provo. Partiamo dalla parola magica di questi giorni, obbligazioni subordinate, che sono quelle oggetto dei ricorsi dei risparmiatori, oggetto ai medici di scelte personali anche estremamente tragiche, fino al suicidio, e oggetto poi della polemica politica. Le obbligazioni subordinate sono un titolo di debito, cioè sostanzialmente, come tutte le obbligazioni, sono un prestito che un'azienda chiede agli investitori e in base al quale remunera poi la quota che viene appunto pagata dagli investitori e la remunera con un rendimento fissato a determinate scadenze, e naturalmente ogni tipo di prestito obbligazionario ha una scadenza esso stesso. Normalmente tutti pensiamo che il prestito obbligazionario, i cosiddetti bond, siano pubblici o privati, sono lo strumento finanziario con maggiori garanzie, il meno rischioso effettivamente, e questo in parte è molto giusto. Il problema però è che poi anche le obbligazioni si differenziano al loro interno in diversi strumenti finanziari con diverse percezioni del rischio. Quelle subordinate si chiamano così proprio perché è previsto che vengano risarcite in subordine, cioè dopo altri risarcimenti che vengono considerati più prioritari, proprio in caso di default, si dice, dell'emittente, cioè in caso di fallimento dell'emittente del prestito. Però in compenso cosa danno? Più interesse? Ci deve essere una compensazione? Ovviamente, no? La compensazione è che l'interesse è più alto perché il rischio è maggiore, chiaramente, anche se nella vicenda che abbiamo visto in questi giorni, che riguardava proprio la Banca Etruria, si sono verificati dei camuffamenti nei tassi di interesse, cioè anche le obbligazioni subordinate avevano tassi di interesse singolarmente bassi che non facevano percepire effettivamente tutto il rischio di quel tipo di strumento finanziario. Se vogliamo entrare nel dettaglio, nell'ottobre del 2013 per esempio la Popolare dell'Etruria ha emesso un bond subordinato destinato alla clientela di base, quindi allo sportello, a un tasso del 5%. Nello stesso periodo Intesa San Paolo, che è la più grande banca italiana e quindi che è assai meno rischiosa della Popolare dell'Etruria, aveva messo un bond subordinato molto simile nello stesso momento con un tasso del 6,75. Quindi voleva dire che Intesa cifrava il proprio rischio in modo più alto e probabilmente più in linea poi con le aspettative del mercato. E quindi questo solo per fare un paragone, come sì, se ne potrebbero fare tanti altri, ma ecco, un tasso che non è esattamente quello di rischio commisurato alla rischiosità appunto del titolo che si va a comprare può indurre in errore appunto e può indurre a scelte sbagliate sull'acquisto o meno di quel titolo. Comunque fin qui abbiamo parlato di obbligazioni subordinate che sono rischiose, hanno una quota di rischio appunto perché non vengono rimborsate in caso di default dell'emittente. Invece le obbligazioni primarie sì, hanno uno status assai più garantito per chi le detiene. Sono titoli di debito, dicevo, l'emittente si indebita con il pubblico, con gli investitori e chiede un prestito ai propri referenti, diciamo così. L'azione invece è un titolo di proprietà. Cioè, se io ho un'azione di una società, faccio parte del capitale di quella società, che normalmente è una società per azioni per l'appunto, diciamo la verità che pro quota sono un padrone, se così vogliamo volgarizzare. L'azione dà diritto a dei dividendi, se la società va bene, a dei rendimenti, anche quelli periodici, eccetera. Però chiaramente chi compra un'azione di una società compra in toto il rischio capitalistico e le scelte strategiche di quella società, quindi ne fa parte integrante di quella scelta anche l'assumersi una parte di rischio imprenditoriale, diciamo così. Se l'azienda va molto bene, fa performance mirabolanti, può darsi che se compri l'IPO della Apple diventi miliardario nel giro di una settimana. Se invece hai scommesso su una società che poi nel giro di breve non riesce più a stare in piedi con le proprie gambe, naturalmente perdi il tuo capitale oltre a perdere il tuo rendimento, ma questo fa parte del gioco e non deve stupire più di tanto. Però bisogna informarsi e bisogna anche essere informati con chiarezza e trasparenza, no? Cose che probabilmente appunto... No, esatto, certamente. Questa è la grande lezione di queste vicende di questi giorni. Sicuramente è fondamentale l'educazione finanziaria ed è fondamentale quindi anche gli sforzi professionali che tutti, compresi noi, facciamo e dobbiamo fare per consentire a chi fa scelte che riguardano il delicato tema del risparmio di farle in modo oculato e avendo tutte le informazioni a disposizione, perché c'è un classico tema che studiano gli economisti, sono le cosiddette asimmetrie del mercato, cioè le asimmetrie informative, la parte che ti vende probabilmente ha molte più informazioni di te che compri, soprattutto se riguardano la propria società e quant'altro, e queste asimmetrie devono essere ridotte il più possibile fino ad arrivare a zero, a rendere i due contraenti da un punto di vista della documentazione e della capacità di scelta paritetici. Speriamo che non sia utopia. Questo è sicuramente utopia in questo momento, non a caso poi ci sono gli organismi di vigilanza che vigilano proprio sull'abuso delle asimmetrie informative e ce ne sono state tante, quindi sicuramente non siamo ancora a quel livello del bilanciamento ideale. E tu sei stato molto bilanciato e molto chiaro invece, Alberto Rioli. Grazie Alberto, buon lavoro. Buona serata. Ciao Alberto. E vediamo se ci strappa qualche sorriso su Di Martedì sulla 7 Crozza, vediamo di cosa parla. Stia scrivendo il sequel, Etruria, ma io mi chiedo, perché ce l'hanno tanto con la Boschi? Perché ce l'avete tanto con la Boschi? Poverina, in fondo poteva capitare a tutti, no? Chi è che nella vita non ha mai fatto il ministro in un governo che salva la banca in cui lavorano tuo papà e tuo fratello? Ma dai, su, io non ce l'ho con la Boschi. Però in questo paese, come ti giri, c'è sempre un conflitto di interessi coi parenti, no? Se non è il padre della Boschi, è il figlio di Lupi. Se non è il figlio della Cancellieri, è il cognato di Fini. E se non è il cognato di Fini, è tutto l'albero genealogico di Alemanno. Ma perché non nominiamo dei ministri solo gente senza famiglia? Questa potrebbe essere una proposta, quella di Crozza. Invece adesso andiamo su cose molto serie, vediamo fino a che punto negli Stati Uniti con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Per capire se questo allarme bomba oggi a Los Angeles, senza precedenti, che ha fatto chiudere 1200 scuole, ha lasciato a casa 655.000 studenti, è effettivamente stato un allarme fondato, concreto o un eccesso di prudenza, Marco? è ancora, diciamo, presto per essere sicuri, però la polemica è già cominciata. Il distretto e le autorità di Los Angeles stanno difendendo a spada tratta la loro decisione di intervenire senza indugi, di chiudere fin dall'alba di questa mattina, fino alle 7 di questa mattina, tutte le scuole di Los Angeles, che, come ricordavi tu, sono appunto circa un migliaio, ed è Los Angeles il secondo distretto scolastico per dimensioni negli Stati Uniti, subito alle spalle di New York, con appunto quasi 700.000 o più di 700.000 studenti mandati a casa, lasciati a casa o mandati a casa, perché spesso erano già arrivati a scuola a quell'ora. Ecco. La ragione: una minaccia elettronica, una email che il distretto ha ricevuto all'alba di questa mattina, dove si minacciavano attentati terroristici da parte di un nome identificato, qualcuno che si autoidentificava come estremista islamico e che sosteneva ci fossero ordigni esplosivi lasciati in zaini e pacchi in numerose scuole, e minacciava possibili assalti con fucili d'assalto, possibilità con fucili d'assalto e pistole automatiche. Ecco, le autorità di Los Angeles, il provveditore, gli studi, il sindaco hanno ritenuto la minaccia credibile e hanno agito di conseguenza. Hanno anche citato, quasi a dare una ragione in più per questo loro intervento senza indugi, la recente strage a San Bernardino, che si trova a poche decine di chilometri da Los Angeles, dove ricorderete sono stati uccisi da due simpatizzanti di ISIS, dello Stato Islamico, 14 persone e altri 20, sono, più di 20 sono rimaste ferite in una dell'attentato terroristico più grave negli Stati Uniti avvenuto dopo l'11 settembre 2001. Ecco. Allo stesso tempo però una minaccia simile è arrivata anche al distretto scolastico di New York. Nessuno ha detto esplicitamente che la minaccia fosse esattamente la stessa, però è stata definita simile. Le autorità di New York, il sindaco, il capo della polizia e i provveditori di New York hanno però immediatamente definito la minaccia assolutamente infondata, non credibile. Hanno rilasciato qualche dettaglio, hanno detto che era piena di errori anche grammaticali, piena di errori di ogni genere, con minacce generiche che la facevano ritenere assolutamente magari di un mitomane infondata. Esatto. Marco, speriamo, e per cui non hanno assolutamente, diciamo, chiuso, provveduto. Da qui è nata anche un po' la polemica fra le due grandi città, diciamo. Sì, il sindaco stesso di Los Angeles, vedevo che ha detto: ma noi l'abbiamo fatto per cercare, insomma, di non essere incauti su questa cosa, si è un po' giustificato. No, comunque speriamo ovviamente che sia stato un falso allarme, anche se chiaramente crea danni in ogni caso, sia psicologici sia poi logistici, con tutto quello che è dovuto seguire. Marco, speriamo di lasciarci allora così definitivamente su questa cosa. Marco Valsania, grazie intanto dagli Stati Uniti. Grazie a voi. Ciao Marco. Vedo ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e a proposito sempre la questione delle banche. Giancarlo dice in modo molto lapidario: che schifo. Maurizio dice: la verità beffarda, sentite cosa dice questo direttore di Banca Etruria. Mette un link sulla pagina Facebook di Effetto Notte, andate lì se lo volete vedere. Invece aspettate proprio con pazienza questa piccola pausa, ci ritroviamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, sempre fino alle 22, ricordatelo, amici, parenti e conoscenti, per avere una sintesi precisa e scrupolosa della giornata con molti ospiti. Tra poco infatti dovremmo raggiungere anche l'avvocato, il legale della famiglia Cucchi, perché dovrebbe arrivare la sentenza a momenti, è arrivata a un punto estremamente importante questo processo, capiremo un po' che piega prende, e tra l'altro parleremo anche dell'inchiesta bis. Però adesso vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri messaggi sulla questione banche, sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Per esempio Stefano da Genova scrive: chi è stato truffato va risarcito, ma da chi ha truffato, non da tutti noi. Cominciamo a dare il quinto dello stipendio di tutti i dirigenti, presidenti e dipendenti che hanno venduto i bond, e vedrai che non lo fanno più, così dice Stefano. Le altre notizie più importanti: la vicenda delle banche, appunto, di cui abbiamo parlato lungamente. Renzi assicura chi ha truffato pagherà e chi è stato truffato sarà risarcito. Le opposizioni restano però sul piede di guerra e dopo il Movimento 5 Stelle anche il centrodestra annuncia una mozione di sfiducia, ma nei confronti di tutto il governo. Allarme terrorismo a Los Angeles, dopo una mail proveniente dalla Germania, scuole chiuse e perquisite in tutto il distretto, la lotta all'ISIS con Riyadh che crea l'alleanza militare islamica con 34 paesi, intanto si incontrano Mosca, Putin e Kerry che dice disposti a lavorare con la Russia per la disfatta dell'ISIS. Il caso Cucchi, di cui parleremo tra pochissimo, si attende la sentenza della Cassazione, domani sciopero dei medici, difendiamo il sistema sanitario nazionale, dicono stop a 2 milioni di visite, a 40.000 interventi chirurgici, garantiti solo gli interventi di emergenza. Spostiamoci quindi sulla vicenda di Stefano Cucchi, vi ricordate il geometra romano deceduto una settimana dopo il suo arresto per droga nell'ottobre del 2009. Il processo per stabilire chi sia responsabile della sua morte è arrivato in Cassazione. Si è in attesa a momenti della decisione della Suprema Corte, che deve valutare se confermare o meno la sentenza di assoluzione degli operatori sanitari e degli agenti imputati nel processo di appello per la morte di Cucchi. Ne parliamo con l'avvocato della famiglia Cucchi, Fabio Anselmo. Buonasera avvocato. Buonasera a voi. A che punto siamo? Siamo a un punto, direi, critico, però per noi estremamente positivo, perché da un lato abbiamo un'indagine che è stata aperta anche col nostro contributo alla Procura di Roma, che a nostro avviso ha raggiunto prove schiaccianti sulla responsabilità in capo ai carabinieri del pestaggio per il quale è morto Stefano Cucchi. Dall'altra parte abbiamo un processo, diciamo, che è stato condizionato pesantemente da false testimonianze, ma anche da consulenze e perizie che certamente non hanno contribuito a fare chiarezza, ma hanno contribuito a, diciamo, a creare quella nebbia che ha creato mille difficoltà in questo processo e le difficoltà che sono note ormai a tutti. Noi all'ultimo atto di questi 6 anni di battaglia giudiziaria abbiamo deciso di rinunciare al ricorso nei confronti degli agenti. È stata una rinuncia sofferta, ma una rinuncia consapevole, razionale, anche in considerazione della requisitoria del procuratore generale e di quanto è successo per quanto riguarda l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Mi scusi avvocato Anselmo, immagino poi che questi saranno momenti febbrili proprio perché sta aspettando la sentenza e l'incassazione, ma perché avete rinunciato al ricorso contro i carabinieri? Abbiamo rinunciato al ricorso contro gli agenti di polizia penitenziaria. Agenti di polizia penitenziaria, scusi, perché? E i carabinieri non c'è nessun ricorso perché le indagini sono in corso. Quella è l'inchiesta bis, giusto? È cacofonico, però è così. Sì, cioè allora la sentenza del processo in Cassazione che si sta aspettando adesso, e dall'altra c'è anche un'inchiesta bis, avvocato Anselmo. È l'inchiesta bis che ci ha indotto, cioè il nostro, per essere esplicito, sì. La nostra rinuncia al ricorso nei confronti degli agenti è un atto di fiducia totale nei confronti del procuratore Pignatone e della sua inchiesta nei confronti dei carabinieri. Il procuratore Pignatone di Roma, che ha voluto, esatto, che ha accettato, che ha accolto la vostra richiesta di riprendere, insomma, l'inchiesta, sì, nei confronti dei carabinieri. Senta, la richiesta che gli fece Ilaria Cucchi subito dopo quella sentenza assolutoria che poi venne impugnata e che è oggetto di discussione di oggi e sulla quale ci dovrebbe essere la sentenza a minuti. E che cosa si aspetta lei, avvocato? Guardi, io sto guardando più verso Piazzale Clodio che verso Piazza Cavour. Questo per intendervi. Verso la Procura di Roma, più fiducioso. Quindi più verso la Procura di Roma che verso la Corte di Cassazione. Io credo che giustizia voglia e richieda che la sentenza venga annullata nei confronti della soluzione pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma a favore degli imputati medici e anche infermieri. Questo io penso. Nei loro confronti noi non abbiamo titolo da un punto di vista giuridico di poter esprimere la nostra posizione, in quanto potendo soltanto come parte civile chiedere e pretendere il risarcimento dei danni, i danni da parte dei medici per la morte di Stefano Cucchi ci sono stati già risarciti. Quindi dal punto di vista processuale, penale, non abbiamo legittimazione a proferire parole nei loro confronti. Ma io credo che giustizia voglia e comporti che la sentenza di assoluzione nei confronti dei medici pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma venga annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello stessa di Roma. Questo io credo, e io penso e io spero come avvocato dei Cucchi, ma anche come uomo, perché non è pensabile che i medici possano essere lasciati indenni da responsabilità penale in questa drammatica vicenda. Detto questo, prendendo atto, ma anche avendo collaborato a fianco della Procura di Roma nell'inchiesta BIS, così la chiamiamo, e vedendo i risultati della stessa, sia pure in maniera sommaria e anche attraverso, diciamo, una sorta di finestra di pertugio aperto dalla stampa sul contenuto dell'inchiesta stessa, io credo che quell'inchiesta porterà a una dichiarazione di responsabilità è grave, è per omicidio e non per lesioni, in capo ai carabinieri che pestarono violentemente, non sono parole mie ma sono parole della procura, il povero Stefano Cucchi subito dopo il suo arresto. Avvocato Anselmo, quindi non mi resta che augurare soprattutto alla famiglia di Stefano Cucchi che sia detta la parola verità una volta per tutte, che sia fatta giustizia, insomma. Questo è sicuro e questo è certo. Le immagini del corpo di Stefano restituito alla famiglia dopo il suo arresto sono immagini che non mi verranno mai cancellate, che non si scoloriranno mai nella mia memoria. Sono immagini che mi porterò per sempre. Io dico che quelle immagini, che quelle fotografie esigono giustizia. Grazie Avvocato Anselmo. Prego. Grazie, buona serata e buona continuazione. A voi. Grazie. E quindi adesso starò con gli occhi puntati sulle agenzie per vedere, visto che diceva lo stesso Avvocato Anselmo che dovrebbe arrivare a momenti questa sentenza, capiremo se entro la fine della trasmissione, insomma entro la fine della serata almeno ci sia questa sentenza della Corte Suprema. Ci prendiamo una pausa per ragionare chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Intanto vi do l'aggiornamento della partita di Coppa Italia Alessandria-Genoa. Alessandria va ai quarti, Genoa eliminato. E adesso quali sono anche le altre notizie importanti? Ve le ricordo dopo le pause, nel caso vi siate perse, con Renzi che dice per quanto riguarda l'Iraq e la lotta al terrorismo 450 militari italiani saranno inviati a difesa della diga di Mosul. E poi invece sulla questione banche dice chi ha truffato pagherà, e abbiamo salvato 1 milione di correntisti, mentre il centrodestra però presenta per domani la mozione di sfiducia al governo. Allarme Zainetti bomba nelle scuole di Los Angeles, che chiude la città a tutte le scuole. Poi c'è stato il vertice Putin-Kerry a Mosca per stringere l'alleanza tra Stati Uniti e Russia nei confronti dell'ISIS. In manovra nella legge di stabilità le assunzioni per la sanità, ma domani resta lo sciopero dei medici. L'Europa propone per l'emergenza immigrazione delle guardie europee alle frontiere controlli più severi e delle possibili modifiche all'accordo del libera circolazione delle persone di Schengen. E poi del processo Cucchi abbiamo appena parlato con il legale della famiglia e attesa la sentenza della Cassazione. Europa 24 notte. A pochi giorni dalla conclusione della conferenza sul clima di Parigi di COP21 si comincia a lavorare a una serie di appuntamenti a livello europeo all'accordo siglato appunto durante quella conferenza. Riuscirà l'Unione Europea a tenere fede alla promessa? Conclusa la conferenza sul clima di Parigi, ognuno torna a casa propria. Obiettivo: portare a termine il progetto per ridurre le emissioni. L'Unione Europea dovrà ridurle del 40% entro il 2030. Per ottenere questo risultato gli esperti sono già al lavoro e alcuni paesi, come la Germania, hanno già messo in campo strategie importanti. Berlino, infatti, annuncerà nel 2016, quindi a breve, il piano d'uscita dal carbone e politiche climatiche al 2050. A livello generale però la Commissione europea sta lavorando a un documento che illustri questo cammino, che prevede un sistema energetico a zero emissioni di carbonio e il quadro strategico necessario per realizzarlo. Un documento che permetterà agli Stati membri di fare le scelte appropriate per quanto riguarda il settore dell'energia e creare presupposti economici stabili per favorire investimenti privati, soprattutto fino al 2030. Il cardine di questo lavoro riguarda l'idea di lavorare in gruppo, pensando a un'economia di scala europea, pensarsi dunque europei per ridurre i costi, garantire le forniture e uscire dai singoli programmi nazionali, come spiega anche Monica Frassoni, segretario dei Verdi europei. La situazione è al momento questa. Noi abbiamo davanti vari mesi, a partire appunto dal 2016, nel quale ci devono preparare le nuove legislazioni in materia di adattamento, diciamo così, agli accordi di Parigi, quindi su rinnovabili. Bisogna rivedere la direttiva sulle rinnovabili, bisogna rivedere la direttiva sull'efficienza energetica, rivedere tutto la questione dell'emission trading, l'ETS. Saranno una serie di già previste scadenze, oltre alla realizzazione dell'Unione per l'Energia, che dovranno però essere adattate ai risultati di Parigi. Perché dico adattate? Perché in questo momento gli impegni dell'Unione Europea di riduzione del 40% delle emissioni da qui al 2030, di fomento delle energie rinnovabili per il 27% a livello europeo e dell'efficienza energetica, target questi due ultimi non vincolanti, sono assolutamente insufficienti per tenere l'Unione sulla traiettoria dei 2 gradi. Figuriamoci rispetto alla traiettoria dell'1,5, è stata una delle cose che l'Unione Europea ha molto spinto a Parigi. Quindi credo che ci sia un problema di qualità della legislazione, di buona fede e trasparenza nella preparazione di questa legislazione, ascoltando anche le voci che di solito Bruxelles non si ascoltano tanto, una maggiore dinamismo nel valorizzare gli aspetti europei appunto di questa legislazione, cercando di non farsi troppo condizionale dai vari diritti nazionali. Quindi credo che queste siano 3 linee di azione importanti che impegnano peraltro anche le ONG, il terzo settore, le città, le municipalità, che hanno avuto in questo periodo un valore, una mobilitazione importantissima per Parigi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Vedo che continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349-238-6666, dice Gianfranco da Sassari, chi ha sbagliato pagherà, Renzi con tutte le menzogne che dice finisce che ci crede anche lui, un ipocrita. E poi Andrea da Bologna dice, racconta delle balle, stiamo ancora aspettando che paghino i responsabili dello sciopero a Capodanno dei vigili di Roma. Ma adesso ci colleghiamo con Giovanni Capuano, perché ci deve dire cosa stanno facendo le squadre italiane in Coppa Italia. Sono tutte italiane, Roberta. Certo, è chiaro, allora, Coppa Italia. No, stava Sandino. Ti do l'aggiornamento dell'Inter, appena finito il primo tempo, Inter-Cagliari 1-0, decide qui il gol di un non italiano, perché Palacio argentino, 24esimo, un bel gol arrivato alla fine di un'azione manovrata e insistita dell'Inter. Inter che sta giocando con parecchie riserve, ma con anche qualche giocatore importante in campo, come Montoya, Medel, Kondogbia, Brozovic, lo stesso Palacio, Biabiani, insomma, Inter che non sta per nulla prendendo sotto gamba la Coppa Italia, tra l'altro Cagliari che gioca stasera a San Siro è prima in classifica in Serie B, insomma è un avversario di tutto rispetto, e difatti è una bella partita. L'Inter ha avuto anche altre occasioni per segnare, ma anche il Cagliari, soprattutto nei 10 minuti finali di questo primo tempo, 2 volte con Giannetti e 1 volta con Cerri, è andato molto vicino al gol del pareggio, quindi partita assolutamente aperta. Però l'altra cosa di cui ti volevo informare e la storia che volevo raccontare è quella dell'Alessandria. La partita è finita davvero da un minuto, Alessandria, squadra di Lega Pro, terza serie, insomma l'ex Serie C, che dopo aver eliminato il Palermo nel turno precedente, questa sera ha fatto fuori il Genoa, quindi 2 squadre di Serie A, e tra l'altro con una vera e propria impresa, ha vinto a Marassi 2-1 nei tempi supplementari, ha vinto pur restando a lungo in 10 uomini per un'espulsione, insomma una storia davvero bella, era seguita da migliaia di tifosi. È la prima squadra di terza serie, quindi ex Serie C, oggi Lega Pro, a qualificarsi per i quarti di finale dal 1984, quindi insomma qualcosa anche di storico. Nel prossimo turno, se la Roma non si suicida con lo Spezia, gioca con lo Spezia. Grazie Giovanni Capuano, noi ci sentiamo alle 22, vediamo se arriva la sentenza sul caso Cucchi.